primo comandamento è ecosostenibilità. Non c'è dubbio sulla tendenza principale emersa dal Salone del Mobile 2011. Per il cinquantenario della fiera che tutto il mondo ci invidia, gli espositori, italiani e non, si sono sfidati a colpi di materiali riciclabili e processi produttivi a emissioni zero. E passeggiando fra gli stand si trovano anche oggetti adatti a quasi tutte le tasche, come spiega il presidente di Floss, azienda leader nel settore dell'illuminazione. Non facciamo mappature dei clienti in base al loro portafoglio, al loro modo di vestire o di comprare. Noi seguiamo un'idea forse un po' romantica di cercare ogni volta, sia che facciamo una lampadetta per un comodino, sia che facciamo un lampadario immenso, quello che per noi è la soluzione ultima. Al Salone Satellite, zona presidiata da creativi e designer estrosi, c'è una vera e propria competizione e dai nomi dei vincitori emerge l'essenza europea dell'evento. Primo premio per la tedesca Elisa Strozik, seguita da un connazionale e da una serba, medaglia di bronzo. La progettista ha realizzato un mobile contenitore. Altro trend che si afferma è infatti la praticità. Mobili e complementi d'arredo sono modulari, componibili, si adattano alla personalità di chi li compra e li usa. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.